Il Dio Trino dei cristiani è conosciuto soprattutto come un Dio di amore giusto e santo. Caratteristiche queste che lo distinguono da ogni altra divinità umana creata dagli uomini. Vi è però anche un'altra caratteristica di Dio che si intreccia con le altre, e senza la quale ogni altra caratteristica verrebbe meno, e cioè la sua fedeltà. A cosa servirebbe un uomo pieno di amore se non fosse fedele? E un uomo santo ma non fedele che fiducia potrebbe ottenere? Così, il fatto che il Dio Trino sia fedele deve essere oggetto di attenzione per chi ha posto fede in Cristo Gesù. E lo serve, perché così la sua fede viene fortificata e il suo messaggio ha una garanzia indispensabile. Infatti, se il messaggio della bella notizia di Cristo Gesù morto per tutti gli uomini per riconciliare la creatura con il Creatore viene rifiutato, non è per il suo contenuto ma per l'impegno che richiede. Gli uomini sono disposti a rendere a Dio quel tanto di culto che basta per zittire la propria coscienza, ma di fronte alla richiesta di una resa totale della propria volontà a Cristo, è più che opportuno allora considerare la fedeltà del Dio Trino, perché di fronte ad un uomo fedele nelle parole e nei fatti tutti ci sentiamo ben disposti, e inoltre, perché prendendo coscienza di questa caratteristica di Dio, chi lo ama è spronato ad assomigliare a Lui. Anche per i credenti dell'Antico Testamento la fedeltà di Dio era oggetto d'attenzione, e su questa essi avevano posto totalmente la loro fede. Che serviva la loro fede se non era posta in un Dio fedele? I profeti più volte hanno presentato la fedeltà di Dio, più volte hanno invitato il popolo a credere, nonostante tutte le apparenze contrarie, che Dio mantiene le sue promesse. E per questo anche il profeta Geremia mette enfasi sulla fedeltà di Dio. Non solo. Nel momento più triste e buio della storia del popolo di Israele, dopo che la città di Gerusalemme è stata distrutta, i bambini uccisi, le donne violentate, il profeta Geremia parla non solo della fedeltà di Dio, ma della sua grande fedeltà. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Lamentazioni 3:22-23. Il dolore, la sofferenza, la morte e la distruzione non sono prove di una mancata fedeltà di Dio. Proprio perché Dio è grande in fedeltà, nella Scrittura, almeno 7 volte, troviamo espressamente dichiarato in che cosa consiste la sua fedeltà. 1. Dio è fedele nel perdonarci i peccati. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. 1 Giovanni 1:8-9. Il problema del peccato è una faccenda seria, per quanto gli uomini non vogliano accettarlo. E come se uno non volesse accettare una multa solo perché non crede al codice stradale, o non lo conosce. Così è della trasgressione alla legge di Dio. Tutti gli uomini hanno una coscienza che accusa e scusa, e per loro questo è già un codice morale. Inoltre vi è la legge santa di Dio che vieta l'ira, il furto, la bestemmia, l'adulterio, i desideri illeciti, perciò chi trasgredisce anche questo codice è colpevole. E la colpa, come si sa, deve essere pagata. Poiché l'uomo non è capace di pagare o rimediare alle sue colpe, Dio ha provveduto che chi li confessa ottenga perdono. Qualcuno potrebbe anche mettere in dubbio il perdono di Dio, e per questo la Scrittura dichiara espressamente che a chi confessa le sue colpe Dio è fedele e giusto da perdonargli i peccati. Non è una cosa da poco. E da notare che la Scrittura non dice di chiedere perdono a Dio per i peccati commessi, perché questi peccati sono già stati perdonati nel momento in cui Gesù Cristo è morto e risorto. Perciò, a noi uomini peccatori non resta che riconoscere le nostre colpe e confessarle con l'intenzione di volerle abbandonare. La confessione dei peccati non deve essere un rituale religioso, come succede nel cattolicesimo e in altre religioni, ma deve essere l'espressione di un cuore pentito che ha deciso di cambiare il comportamento sbagliato. Così chi crede che Cristo sia il solo Salvatore, Signore e Mediatore tra gli uomini e Dio, una volta confessato il peccato di avere avuto Altri mediatori, quali la Madonna e i Santi, si continua a rivolgersi al sacerdote, alla Madonna e i Santi, per intercedere presso Dio. La sua confessione di peccato non è reale. Dio è fedele di perdonare i peccati confessati realmente e sinceramente, ma chi li confessa e non li abbandona non ottiene il perdono dei suoi peccati. È vero che Dio è grande in fedeltà, ma l'uomo deve disporsi nel giusto atteggiamento per riceverla. 2. Dio è fedele nella tentazione. Nessuna tentazione vi ha colti, che non sia stata umana. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate sopportare. 1 Corinzi 10:13-14. La grande fedeltà di Dio è quella di tenere conto della nostra umanità e non permettere che sopportiamo pesi o tentazioni che vadano al di là della nostra portata. Proprio perché Dio è fedele in questo, a noi non resta che fare tutto il possibile per non essere tentati. Chi osserva i comandamenti di Dio non è salvato per la sua obbedienza, non ha nessun merito per essere salvato, ma evita di trovarsi in situazioni di tentazione che lui non ha scelto. Vi è una tentazione che fa parte dei piani di Dio, come quella di Gesù nel deserto poco dopo il suo battesimo, e questa è sopportabile ed evitabile, ma le tentazioni che ci procuriamo noi sono fatali. Questo spiega anche perché alcuni soccombano a certe tentazioni. La fedeltà di Dio è grande, ma nell'ambito della sua volontà. 3. Dio è fedele nel santificarci. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. 1 Tessalonicesi 5:24. È molto importante sapere che la grande fedeltà di Dio si manifesta anche nel volere che i suoi figli siano santificati, cioè resi sempre più conformi al volere di Dio. Senza questo obiettivo, chi ha posto fede in Cristo potrebbe essere scoraggiato, ma quando pensa alla grande fedeltà di Dio può levare il capo in alto e adorare Dio anche per questo aspetto della sua fedeltà. 4. Dio è fedele nelle promesse. Certa è questa affermazione. Se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. 2 Timoteo 2:11-13. Una caratteristica umana è quella di non essere fedeli, e questo Dio lo sa. Proprio per questo, la grande fedeltà di Dio non guarda la nostra infedeltà, ma rimane fedele alle promesse fatte. Così, anche se i credenti vengono meno alla loro parole, Dio non viene meno alle sue. Poteva fare la grande fedeltà di Dio di più? 5. Dio è fedele da renderci saldi. Per il resto, fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra di voi, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede. Ma il Signore è fedele ed Egli vi renderà saldi. 2 Tessalonicesi 3:1-3. Rendere salda o stabile una cosa indica che essa prima non lo era. Tutti coloro che pongono fede in Cristo come la pietra angolare lo fanno perché nella loro vita non hanno un punto fermo. Sono instabili. Compreso che Cristo è il punto di riferimento e il punto fermo riguardo ogni cosa, il credente guarda ostinatamente e con fermezza al Figlio di Dio per ricevere quella sicurezza che solo Lui può dare. Chi testimonia fedelmente di Gesù a costo della propria vita è un debole reso forte. La grande fedeltà di Dio trasforma l'argilla in roccia. 6. Dio è fedele da preservarci dal maligno. Il Signore è fedele ed Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. 2 Tessalonicesi 3:1-3. Essere guardati dal maligno è un bene che non tutti hanno. Ogni giorno sentiamo persone che, in qualche modo, sono state vittime di Satana, ma la grande fedeltà di Dio non permette che coloro che sono diventati figli di Dio, siano vittima del maligno e del male. La fedeltà di Dio è veramente grande. 7. Dio è fedele da renderci irreprensibili. Dio vi confermerà fino alla fine, affinché siate irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo. Fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo Figlio Gesù Cristo. Nostro Signore. 1 Corinzi 1:8-9. Come in una gara tutti partono ma non tutti arrivano, tutti vogliono vincere ma pochi sono i premiati. Così è nel campo di Dio. Essere irreprensibili, arrivare alla presenza di Dio vincitori, non è una prerogativa di tutti, ma la grande fedeltà di Dio è in grado di rendere irreprensibile chi pone fede in Lui. E questo non è poco. Questi sono solo alcuni aspetti della grande fedeltà di Dio, ma abbiamo esaminati solo questi, perché sono dichiaratamente testimoniati nella Scrittura. Gli altri aspetti della grande fedeltà di Dio potranno vederli coloro che hanno posto fede in Cristo. E io sono uno di quelli. Gennaio 2006, Ellero.